questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Sto leggendo la vostra lettera. Oh, Messi! Spiazza così Hart! 66! Gol! Che si infila in area di rigore. Tocco morbido dentro! Dani Alves! Per il 2-0 del Barça! Che... Allora, il primo brano che ascoltiamo di Ibrahimovic, 3-0, spettacolo Ibra, questo è un gran gol, un gran tonnellate d'oro. Forse sono logorroico, sono stanco, perché ieri sera ero a farmi prendere per il culo da Fazio coi finti operai che si buttavano da sotto. Ecco, è questo che mi dà fastidio, ed è la vostra prima notizia del Festival di Sanremo. Cadete anche questo, perché ve le danno apposta. Pierluigi Pardo, come va? Sei sicuro di voler tornare da Swansea? Momento sono dancer da Minsk. Lo so, sei però... sulla via per Swansea, ma sei sicuro di voler tornare? Guarda, io a costo di sembrare un uomo privo di interessi, vivrei apparentemente una condizione di telecronista in Champions League, roba lì, cioè sarei proprio... Senti, non è che c'hai, non è che c'hai bisogno... Che non mi rende attraente per le signore, l'ascolto, però anche... sto benissimo. Non è che c'hai bisogno, perché qui zeliga l'ora di pranzo anche... Cioè, se hai bisogno, ma qualunque cosa, io prendo il primo aereo per Amsterdam, certo. E poi andiamo insieme a Swansea. Il Milano Swansea, il classico dell'aviazione, certo. 800 24 00 24, amici miei, bravissimi in montaggio, Giorgio De Luca, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. Ma sai con chi parliamo, tanto per cominciare? Sì, con chi? Con chi? Non lo so. Con aspetta, chi? Aspetta, senti. Marta Cagnola da Sanremo. Ah, però così. Ieri sera le ho mandato un tweet alla Cagnola, perché io ho fatto diretta premium di City Barça, sì. E sono tornato a casa e c'era praticamente il riepilogo di Sanremo. Ho visto Cat Stevens, che insomma veramente sembrava Messi che giocava nel campetto sotto casa, nel senso che era... sai quando fai tipo ragazzi spostati, è carino, sì. E poi però ho visto le sette clip e non ne, cioè, conosco Cristiano Dembré, Frankie Energy e gli altri, mi mancavano. Chiedo Arisa che però sembra Savino ormai, molto, sì. Algida, capello corto. Quindi confesso l'amorosa ignoranza musicale. No, ma scusami, fammi capire. Allora, io ieri sera mi sono passato tutta la sera a guardare City Barça e Bayer Leverkusen e Paris Saint Germain, praticamente due partite scontate. Da una parte Ibrahimovic che ha fatto l'inferno, e dall'altra l'arbitro che ha fatto i regali al Barcellona. Non ho visto niente di Sanremo. Apposta chiamo Marta Cagnola e mi racconti te Sanremo. No, hai ragione, scusami. No, ma io ti ho detto la mia visione veramente. Quindi è scanalato. La parola all'ufficialità. Dottoressa Cagnola, che dica. C'è speranza? Marta? Eccoci ragazzi, io vi sento pochissimo perché in realtà sto diventando già sorda ed è solo il secondo giorno di Sanremo. Subito premio della critica per tutti i convocati e per questi due bei ragazzi che finalmente mi chiamano. Cioè, veramente, io vorrei parlare di sport con voi tutti i giorni anche se non ne so nulla. Cioè, non ho capito, cioè Pardo che mi parla di Sanremo e Marta Cagnola che mi parla di sport. Fatemi capire. Facciamo così, è bellissimo. No, vabbè, dai. Cosa volete sapere di questo Sanremo, questa prima faticosissima serata io vorrei che tu parlassi bene ad alta voce di noi, come direbbe De André, quindi vorrei che tu facessi questa cosa approfittando della, magari non tutti ci conoscono, De Visu, e magari possiamo confidare su questo. Beh, io già presiedo il fan club, ragazzi. Sì. Comunque da ieri sera ho deciso che se mi volete come inviata a seguire la pallanuoto, io vado, sì. Ah, perché ti piacciono? No, vabbè, perché ieri sera c'era questo Amauri Perez. Sì. E niente, così, se avete un po' scoperto la pallavolo come la pallanuoto come sport, ma non azzecco neanche un po'. No, pallavolo ci sei, pallavolo ci sei, e tu lo sai, perché sai chi c'è stasera. Chi c'è stasera? Allora, aspetta, che c'ho tutti i nomi. Allora, questa sera abbiamo Veronica Angeloni, dai, te lo dico io, t'aiuto. Lo conosco, e sì. Poi Veronica Angeloni. Esatto. Ho detto giusto? Sì, hai detto giusto. Schiacciatrice di Frosinone. Arnie Schögler, che mi piace tanto. Mentre pare stia tramontando l'ipotesi Francesco Totti. A tramonta? Allora, grazie. Amare la Rossi, grazie, grazie, sempre così. E anche rinunciato al gettone di presenza. Poi vabbè, sapete che queste notizie sono date per essere smentite. Pare abbia rinunciato a un gettone di presenza pari a 180.000 euro. Mica male, poi vabbè, ovviamente no, ma sono le voci che circolano. Marta, tu promuovici, cioè per quel gettone lì veniamo io e Pardo, dividiamo in due. Anche per un po' di meno, io calcolo tutte le cifre in mutui residui, cioè in è bella questa canzone. Sì, perché penso sempre, ma quanto mi risolverebbe? E io così calcolo i compensi. Comunque, allora, tra i nomi che circolano, addirittura è circolato, cioè m'hanno però dovete dirmi voi se è possibile, addirittura Usain Bolt. Usain Bolt? Che corre fino a qua? Non lo so. Ma come andate ieri sera? Dacci una sintesi alta della prima serata. È stata una noia mortale, diciamola apertamente. No. Allora è stata un po' sfigata all'inizio, perché sì, purtroppo, come spesso succede, lo sapete, quando una trasmissione viene costruita molto e scritta molto, al primo guaio e poi si incasina tutto, non riesci più a rimetterla ai binari. Quando invece è tutto improvvisato, le cose poi alla fine le sistemi. Se invece tutto è molto organizzato e molto scritto, i guai fanno diventare tutto difficile. Quindi, anche se non avete visto la puntata, avete saputo della contestazione nel palco. È proprio all'inizio, dalla galleria, i due lavoratori che hanno minacciato di buttarsi. Tutto questo ha reso l'inizio del festival estremamente faticoso. E quando le cose partono in salita, lo sapete che i primi metri sono sempre importantissimi. Se parti piano, è che devi fare poi? Beh, ma d'altra parte, Marta, Sanremo senza polemica non può esistere. Ma dimmi una cosa, poi ti saluto poi faccio sentire anche Renzi. Anzi, fammi sentire Renzi. La camera non lo sta trasmettendo. Non è un radiomicrofono. Ecco. Buongiorno a tutti. Oh, si sente o non si sente Renzi? Capisco che oggi avreste dovuto pagare il biglietto, però state tranquilli. Allora, se ci siete... Ho terminato gli incontri di consultazione con tutte le forze politiche che sono stati organizzati dopo il conferimento dell'incarico, e posso dire che dopo un giorno e mezzo molto tosto di incontri, dialoghi, approfondimenti programmatici, sono decisamente convinto che ci siano le condizioni per fare un ottimo lavoro. Quasi tutti gli incontri sono stati molto seri, giocate a indovina chi, qual è quello che è stato un po' meno serio. Quasi tutti gli incontri, sia con le forze che faranno parte della maggioranza e del governo, sia quelli che hanno visto protagoniste le opposizioni di vario genere e natura, si sono resi conto della drammaticità della situazione che stiamo vivendo, ma anche della possibilità di un'uscita. Cercavo di far notare qualche istante fa come sia fondamentale prendere atto che mentre noi discutiamo, parliamo, fuori da qui, fuori dalle nostre discussioni, fuori dal nostro, dalla quotidianità, c'è un paese reale che ha la possibilità di uscire dalla crisi, ma che aspetta dalla politica non soltanto parole di speranza, ma anche parole di concretezza. E alla luce di questo ritengo che il lavoro che abbiamo svolto in questo giorno e mezzo ci consenta un percorso che vi illustro. Questa sera mi recherò dal Capo dello Stato per riferirgli sui colloqui. Intendo prendermi la giornata di domani per la redazione di un documento programmatico che sia il più concreto possibile e il più capace di avvicinarci all'appuntamento del semestre europeo con una serie di riforme concrete che partono dai tagli dei costi della politica, che proseguono con le riforme costituzionali e istituzionali, che affronteranno nel mese di marzo il mondo del lavoro, che è la vera priorità, perché i ragazzi che non hanno il posto di lavoro o i cinquantenni che lo perdono sono meno interessati al cinema e molto più interessati alla sostanza delle cose. Tra aprile e maggio fisco e pubblica amministrazione, e poi affrontare tutti i temi legati alla organizzazione della giustizia in questo paese. Il tutto per consentire di arrivare a luglio con l'appuntamento del semestre europeo con un'Italia in grado di raccontare che cosa l'Italia chiede all'Europa e non solo che cosa l'Europa vuole dall'Italia. Noi vogliamo ricordare a noi stessi, nella tradizione europeista che ci caratterizza, il valore non soltanto simbolico ma anche politico, che è una cosa ancora più grande, dell'appartenenza europea, e quindi cambiare tutti insieme il modo di percepire l'Europa e le sue istituzioni. Questo lavoro richiederà ovviamente tutto l'impegno e il coraggio che saremo in grado di mettere. Immagino di poter sciogliere la riserva, se il lavoro di queste ore andrà bene, nella giornata di sabato, e chiedere ai presidenti del Senato prima e della Camera poi di recarmi in aula a partire dal lunedì della settimana prossima. Se ci sono domande rispondo volentieri. Ma guarda che happening, abbiamo sentito passati dal calcio a Sanremo a Renzi, che abbiamo pescato in diretta. Simone Spezia, ciao. Eccoci qua, Carlo. Sono venuto a trovare. Allora, riassumi un po'. Allora, molto semplicemente, abbiamo sentito prima in questi momenti. Solo in questo momento in ascolto. All'ascolto. Prima, in effetto, giorno abbiamo fatto ascoltare questo incontro tra Renzi e Grillo, che è stato sostanzialmente un monologo di Grillo nel quale ha detto che non l'avrebbe fatto parlare, ma questo è il difetto dello streaming, nel senso che se metti in diretta tutto quanto, uno parla ai suoi elettori, mica parla alla persona che ha di fronte, quindi era anche prevedibile che questo avvenisse. Dopodiché c'è stato un vero e proprio comizio o spettacolo, come ha voluto chiamarlo Renzi, di Grillo davanti ai giornalisti dopo l'incontro con Renzi, e adesso appunto sta parlando Matteo Renzi. I tempi sono lievemente ritardati rispetto a quello che ci attendevamo, cioè ci si aspettava una fiducia, già un voto di fiducia già sabato. Renzi ha chiarito, l'abbiamo sentito un attimo fa, che probabilmente sarà la settimana prossima. Sì, domani gioca la Fiorentina. Esatto. Renzi va a vederla, e quindi magari la Champions League chi la vince? Hai visto Ibrahimovic ieri sera? No. Ieri non sono riuscito. Hai guardato Sanremo? Guardami negli occhi. Ho guardato un pezzo di Sanremo e poi sono andato a raccontare la prima pagina del Sole e i nostri ascolti a TGcom 24. Fantastico. Senti, se c'è qualcos'altro vieni quando vuoi. Qui totale happening. Pardo? Pierluigi? Oh, ci sei? Non c'è, dov'è? Me lo prendete? Stiamo aspettando Pierluigi Pardo, che è sulla via di Swansea. Secondo me ha deciso di non tornare indietro, raccogliendo il mio consiglio e il mio suggerimento. Allora, già che aspettiamo Pardo, ho parlato di Ibrahimovic, e allora ve lo voglio far sentire, il grande protagonista della serata di Champions. Abbiamo un gran vantaggio per seconda partita, e se possiamo giocare come oggi e stare concentrati c'è un grande possibilità che passiamo, però manca ancora una partita e bisogna stare attenti. Le cose stanno andando bene, sono contento, la squadra sta giocando bene e se possiamo arrivare al fine va bene, però non è facile, più arrivi in Champions più difficile è. Vediamo. I casi sono due per Luigi: o hai deciso di non tornare da Swansea dopo aver sentito Renzi, o sei svenuto? No, io Renzi l'ho sentito di un certo punto, mi avevano detto ti richiamiamo e sì, ero anche interessato a sentirlo, però insomma, ma che è successo con Grillo? Ma no, niente, è arrivato Grillo, ha fatto il suo cabaret in questo faccia a faccia, che è stato un faccia a faccia formale perché di fatto ha parlato solo Grillo, ha fatto il suo one man show e adesso Renzi ha risposto. Ok, va bene. Non so se ha sentito tutto. Non credo che abbia guardato Sanremo, ma adesso glielo chiedo. Non so se ha seguito il faccia a faccia tra Renzi e Grillo. Filippo Galli. Ciao. Buongiorno, ciao Carlo. Ciao, non ho seguito Sanremo. Niente. Mi è piaciuto solo per Cat Stevens, devo essere sincero. Per le sue canzoni, mi hanno detto che è stato un momento, forse il momento più bello. Non so, per il resto non ho seguito davvero nulla. Filippo, ti faccio ripetere da Pardo la definizione che ha dato prima su Cat Stevens. No, io ho fatto un tweet ieri sera dicendo, ma lo dico con rispetto per Sanremo, però sa, vedere improvvisamente apparire Cat Stevens a Sanremo è stato come vedere Messi al Parco Rumorenze, che è un parchetto sotto casa mia, vicino a Piazza Istria, a Roma, zona Corso Rieste. Chi conosce Roma lo conosce, un parchettino dove andavamo da bambini a giocare con le porte, con i giacchetti. E anche molto romantica come atmosfera, sì, sì, però non c'entrava nulla, insomma, tu dici. Ecco, insomma, è come se a Sant'Agnese, dove giocavo da bambino vicino a Francesco Pascoli e Alessandro Ferrazzi, mi mise il cuore, improvvisamente arrivasse Cristiano Ronaldo che mi dava le squadre con i cerchetti. Fantastico. Con, lo dico con rispetto, hai reso appieno. È un pezzo di storia d'Italia, quindi grande rispetto. Senti Filippo, hai finito, sì, i festeggiamenti? Ieri abbiamo sentito il tuo sottoposto Pippo Inzaghi. Penso che no, tu abbia finito i festeggiamenti dopo aver alzato quella coppa, che mi sembra molto importante. Assolutamente, c'è una grande gioia. Io sono stato con la squadra il lunedì sera, dove siamo stati con signor Gagliani e con tutto lo staff, tutto il gruppo di lavoro, e poi dopo loro sono andati anche in una discoteca, ma io sono tornato a casa, anche perché ieri mattina avevamo i responsabili del settore giovanile dell'Atletico Madrid da noi, e quindi i festeggiamenti sono già stati messi alle spalle, quindi dobbiamo guardare avanti. Bello sicuramente quando vinci un trofeo così importante, considerato così importante con l'Italia, che è un po' il premio al lavoro svolto da tutti nel settore giovanile. È chiaro che purtroppo, tra virgolette, per fortuna, il lavoro viene sempre misurato in base ai risultati, non dovrebbe essere così, cioè risultati sul campo, sì, nel settore giovanile, ma abbiamo una cultura che difficilmente si distacca da questo vincolo. Sì, cominciamo anche a vedere i risultati dal punto di vista dei giocatori. In compenso c'era anche Pardo l'altra sera, che ha fatto che fa la spia. L'ho visto, sì, l'ho visto. Che ha partecipato alla notte in discoteca, eccetera. Cosa è successo? No, ho anche mandato una foto pubblicata su Twitter, mi assumo le mie responsabilità, sì, sono a metà tra abbandonare i carri, mi assumo le mie responsabilità. La foto l'ho pubblicata, c'erano Filippo Galli, Passotti e Inzaghi con la coppa. Sì. Ma a me è sembrata, ecco, questo volevo chiederti Filippo, mi è sembrata proprio una di quelle serate, quante volte si dice che il Milan è una famiglia, e sembra una frase un po' astratta, però mi è sembrata una notte molto galianiana. Adesso non voglio mettermi in imbarazzo. No, ma è stata una bella serata perché appunto c'era la gioia per questi ragazzi. No, tocca a me parlare. Vai. c'era Inzaghi, c'era Mauro, che insomma era l'ultimo allenatore nel settore giovanile ad aver vinto questo importante trofeo, e quindi così è stato un modo per ritrovarsi e per creare quell'ambiente che secondo me spesso è stato anche alla base di tante vittorie rossonere. È chiaro che poi ci vogliono la qualità dei giocatori, ci vogliono tante componenti, però il gruppo, la coesione, la professionalità, la cultura del lavoro sono poi elementi che fanno la differenza. Senti Filippo, ma ha ragione comunque Pierluigi, molto familiare quella serata, ma io ho l'impressione che proprio questa squadra in questo particolare momento storico sia il cuore del Milan, per diverse ragioni, e la curva che trasloca a vedere la finale del torneo di Viareggio, e questa notte di grande festa e un grande risultato raggiunto, mi sembra che il Milan forse, ma sto forzando, il Milan stia ripartendo da quella squadra lì. Beh, insomma, c'è da dire che Pippo Inzaghi è sicuramente un trascinatore, catalizzatore di attenzioni, infatti la curva non solo in questa occasione, anche nel derby giocato a Interello sembrava di essere in casa, quindi è chiaro che viene seguita in modo particolare questa squadra, così come era seguita la squadra degli allievi dallo stesso Pippo lo scorso anno. Non può far che bene come movimento, siamo consapevoli che probabilmente sarà difficile tenere Pippo qui vita naturale durante nel settore giovanile alla guida della squadra della primavera, però questo vuol dire che insomma lui sta dando qualcosa di importante e noi stiamo dando qualcosa di importante a lui per lo sviluppo, per la crescita, per della sua carriera e del suo diventare allenatore. Ecco, lui dalla parte sua ci mette passione, ci mette determinazione, ci mette una cura dei particolari incredibile. Con questo poi ci troviamo molto bene, perché anche a me piace essere sempre sul pezzo, quindi diciamo che da questo punto di vista ci siamo trovati. E stasera come va? Stasera speriamo di avere una bella serata. Tra l'altro ci saranno i ragazzi che insieme allo staff saranno all'interno del campo di San Siro, credo verso le 8:05, prima che le squadre si riscaldino, per mostrare la Coppa. Speriamo che ci sia già qualcuno allo stadio. Stasera poi la partita sarà una bella partita difficile, perché loro sono una squadra determinata, una squadra che si vede molto bene, però chissà, magari qualche colpo, come abbiamo visto l'altra sera di Balotelli, potrebbe scardinare il loro sistema difensivo, e poi da lì potremmo vederne delle belle. Oh, l'hai detto te, non l'ho detto io, Sì. L'ha detto Filippo Galli, Pardo testimone, non sono stato io, non sono stato io a dire se non la risolve Balotelli non la risolve nessuno, non l'ho detto io. No, io non l'ho detto così. Che no. Balotelli, Sì, dai. Magari. L'avete tirato un po' per i capelli questo. Senti, facciamo così, vieni a trovarci un giorno. Volentieri, vengo molto molto volentieri. Molto bene, promessa pubblica. Sì. Promessa pubblica. No, non c'è bisogno di prometto, ma non voglio dire. Credo che sia importante la mia promessa. Vengo io molto volentieri. Grande Filippo. A trovare. Sapete che tra un po' vado di Gennaro invece. Tra un po' vi porto di Gennaro in diretta. Di Gennaro? Wow. Sì, gli faccio fare anche l'imitazione di Renzi. Diretta nazionale per Radio 24 per celebrare le curve, gli ascolti. Sei pronto per l'imitazione di Salvemini? No, voglio l'imitazione di Renzi, non di Salvemini. No, l'imitazione di Salvemini è una cosa incredibile. Siamo pronti. Prima la borsa, però. Borsa. Questa mania di twittare. Tutti convocati. 800 24 00 24, il numero verde. Il mio sentimento dopo le partite di ieri sera di Champions League, ma anche prima delle partite di ieri sera di Champions League, è quello di Marco da Piacenza, che scrive: voglio vedere Ibra piangere con la Champions in mano. Anch'io, Marco. E Luigi, posso chiederti una cosa? No, Ibra ieri mi ha emozionato, sai che io ormai sono un voyeur, vivo solo per certe cose, per certi giocatori, per certe giocate che sono quelle che ho visto in una partita inesistente quale quella di Leverkusen, perché il Paris Saint-Germain, Ibrahimovic, l'ha dominata e stradominata. Però posso tornare prima di Marco da Milano, Enzo da Napoli, Pasquale provincia di Foggia, ovviamente adesso la carica dei convocati. Però le parole di Filippo Galli, sentono, ha detto: vabbè, Inzaghi non è che possiamo tenerlo qua a vita naturale durante. Cioè, sta facendo, infiamma gli animi, appassiona, è il cuore del Milan, eccetera. E però, che succede? Cioè, Sedorf è appena arrivato. No, guarda, io ieri sera sono atterrato. Però sono interessanti queste. No, sono atterrato abbastanza casualmente, così diciamo, per interesse professionale alla fine di Tiki Taka questa serata. E la mia sensazione è che veramente quello è un pezzo di Milan, no? Quando tutta la retorica, anche quella proprio un po' da, no, cerchiamo di un finismo, quella di cui il Milan è stato capace in questi anni, li vive. Che piaccia o no, li vive. Poi chiaramente non basta da solo a vincere i trofei e a alzare le coppe. Se non c'è budget, se vendi Ibra e Thiago, chiaro, ti indebolisci. Però quell'idea lì c'è. Sì, ho capito, ma con Seedorf come la mettiamo? Cioè, un conto sarebbe, ok, l'anno prossimo in Zaga allenatore. È molto legata, secondo me, alla sfera gandianiana del Milan. Sì. Ecco, non perché non ci sia un buon rapporto, assolutamente, però insomma è quell'idea lì, è la squadra che c'era fino a qualche tempo fa, è la squadra che in qualche modo quest'anno è stata messa in discussione, in una dialettica interna che ci può stare assolutamente, che può essere anche produttiva di cose buone, ma che comunque insomma quest'anno sarà messa in discussione. No, adesso penso che c'è Seedorf. Senti, si sente, senti, però, va bene che sei a Amsterdam, aeroporto di Schiphol, come si chiama? No. Schiphol, riprendiamo un attimo il collegamento perché si sente abbastanza male, Pier. Riproviamoci. Intanto Marco da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Niente, io volevo dire due cose, una su Ibrahimovic e Paris Saint-Germain e una sul Milan, velocissimo. Prego. Io Ibra lo stimo tantissimo e trovo che sia un campione che ha raggiunto un livello stratosferico in età, ma trovo cos'è? Anche di che squadra tiene? Non ricordo. Io tengo al Milan, però sono molto contento per Ibra e soprattutto mi piace moltissimo dall'anno scorso della trasferta di Barcellona al Paris Saint-Germain. La reputo una squadra molto forte, con giocatori vecchi esperti e giovani che possono migliorare moltissimo, che ha un campionato che non aiuta a essere a livello alto in Europa, ma che però è l'ha detto Cappello, questo lo dice lei. Ah no, lo dico io, non seguo Cappello. No, comunque trovo che sia fortissimo. Dall'anno scorso ha dimostrato con quella partita a Barcellona di essere una gran squadra. Non vendono, hanno la società dietro, cioè, mantengono, comprano e possono raggiungere il livello altissimo. E Ibra per me è stratosferico e se continua così Ibra deve essere messo tra i più grandissimi di tutta la storia del calcio, perché ha una continuità pazzesca. I più grandissimi, soprattutto sì. gli manca quel risultato lì. Cioè Roberto sì. Interista invece che scrive voglio vedere Ibra piangere con la coppa alzata dagli avversari, è molto cattivo questo messaggio. A Ibrahimovic manca solo quel risultato lì, no? Per entrare nel club dei più grandi, perché quanto a campionati, vabbè, nessuno ha il suo palmarès, nessuno ha il suo curriculum, quanto a campionati vinti, quanto a capacità di trasformare la squadra. Poi per mille e una ragione, compresa la fatalità del calcio, quella coppa l'ha sempre vista alzare dagli altri piangendo. Io proprio per queste ragioni mi auguro che tocchi a lui. Che tocchi a lui quest'anno. Sei tornato, Pierluigi? No, Schiphol. Io sono qui. No, tu dire che a proposito di Ibra ci sono due motivi fondamentali per i quali quella coppa lì pesa più che per altri. Uno è stato che chiaramente Ibra appartiene a una nazionale di medio livello, di medio cabotaggio, per cui a livello di nazionale certe soddisfazioni non se le potrà mai togliere. E poi il fatto che lui è andato via a Barcellona nel 2009-2010 per vincere la Champions, e quella lì l'ha vinto la squadra dove era fino a pochi mesi prima, quindi questo ha reso tutto questo uno psicodramma per lui, no? Un grande godimento per gli interisti che ha fatto l'affare quell'anno lì, sicuramente è un grande dramma per lui, insomma. Dal punto di vista della qualità tecnica, per me Ibra è un giocatore incredibile, è un metro dietro a Cristiano Ronaldo, siamo in quella categoria lì, secondo me. Certamente. Enzo Napoli, buongiorno. Salve, buongiorno, grazie per la convocazione. Grazie a lei, Enzo. Sulla chiusura settori olimpico, anche altri stadi, noi assolutamente, insomma noi, parlo anche me e altri miei amici Napoli, non siamo assolutamente d'accordo, perché è la sconfitta delle persone per bene che vanno a vedere la partita e a tifare per la propria squadra. È troppo semplice puntare il dito verso la massa e penalizzare tutti. Purtroppo noi paghiamo anni dove noi in Italia la cultura sportiva noi manca completamente. Io questo lo dico in quanto nel tempo libero faccio istruttore, l'allenatore di pallacanestro per squadre settore giovanile. E quindi lo riscontro ogni volta, ogni domenica, ogni sabato che io gioco le partite in palestra. È la stessa cosa. Noi assolutamente abbiamo la cultura sportiva, noi non sappiamo cosa sia. Non sappiamo cosa sia. Lo so, però bisognerebbe trovare una soluzione che vada oltre il piangersi addosso su questa verità, perché sono cose che diciamo, sentiamo da anni, cose di cui ci lamentiamo, perché siamo un paese molto lamentoso, ci lamentiamo di questo ed è senz'altro vero. Non troviamo una ricetta, non credo che la situazione, anzi non trovo la situazione diversa attualmente rispetto a quanto non fosse 10, 15, 20, 30 anni fa. Mi pare che non siano state trovate grandi ricette se non questa di blindare settori degli stadi, di creare mille polemiche e di tirarsi in molti casi la zappa sui piedi, perché così è alla fine, dato che non è questo il modo, secondo me, anzi non secondo me, non è questo il modo di risolvere il problema, semplicemente è uno strumento di pressione in più che si offre a certe frange nei rapporti con le società. Não sei se é da publicidade da Unicef, não sei se é o poder do senhor Villar em UEFA, não sei se são muito simpáticos, não sei, não entendo. Por quê? Riccardo Trevisani da Sky, ciao. Buon pomeriggio a tutti. Non a caso ti faccio sentire il porché di Mourinho, eh? Avrà visto anche lui, eh? Come stai, Riccardella? Tutto bene? Tutto bene, Capoccione, tutto bene. Come che mi chiami? Capoccione. Capoccione. Lui mi chiama Capoccione. Aspetta, adesso ci sono un'altra vicenda. È visibile il motivo. Sì, il motivo è intuibile. Senti, ma Riccardo, Mourinho veramente, ovviamente avrà visto Manchester City, Barcellona di ieri sera. Non che una gli sia più simpatica dell'altra, mi pare. Sì, però... obiettivamente, ci hanno anche tolto il privilegio di vedere una bellissima partita, secondo me. Qui mi riferisco a un altro dei nemici di Mourinho, cioè Pellegrini, che ha scelto una formazione, orripilante. Un atteggiamento veramente raccapricciante. Sì. Perché col Barcellona ci sta che tu possa perdere, ma se non fai nemmeno un tiro in porta è molto più probabile che tu possa perdere. Poi difendere ad oltranza non ti tutela dall'eventuale errore, come è successo in occasione di quell'uscita di Jesus Navas, la difesa mal sistemata sulla palla di Iniesta per Messi. Onestamente hanno fatto sembrare il Barcellona più forte di quello che era in questo momento, in cui non lo è, rinunciando a giocare, di fatto uscendo dalla Champions nella gara d'andata in casa, e siccome in casa quest'anno ha già perso col Chelsea il campionato, ha già perso prendendo 3 gol dal Bayern di Guardiola, penso che ci siano delle oggettive responsabilità, perché poi il talento non gli manca. Sì, certamente, ha fatto una pessima figura il City, il Barcellona non mi è sembrato nulla di che, e poi ha avuto il favorino, no Pier? Sì, ha avuto il favorone, perché alla fine in quella situazione lì ci sono tre episodi. Il primo è un fallo, secondo me è molto evidente, su Jesus Navas. Il secondo è un dubbio, una posizione di fuori gioco che non c'è, quindi assolutamente non c'è, ma è millimetrico. E il terzo è la posizione nella quale avviene il contatto. Quindi parliamo di tre situazioni, due delle quali erano, diciamo, a favore del Manchester City, una era a favore del Barcellona, cioè il fatto che Messi fosse partito in posizione regolare. Diciamo che tutte e tre le cose sono andate nel verso che preferiva il Barça, no? Perché c'era il palla a metà campo e l'intervento era fuori area, quindi è grave ed è un grande peccato, secondo me. Sono d'accordo però sull'idea che il Barcellona, io ho ancora negli occhi il Bayern Barcellona dell'anno scorso, che per carità è una partita arrivata a una stagione con una squadra stanca, eccetera. Però la sensazione è che poi il Barça oggi viva ancora molto del suo passato, e quindi non sempre si trovi il coraggio per poter provare. Sì, diciamo che la partita di ieri ha detto pochissimo sul valore del Barcellona, ha detto molto invece sulle qualità, ma io non tanto del City quanto di chi la allena, di difficile Arturo Tamburini da questo punto di vista. Pierluigi, io ti saluto e ti lascio andare a Swansea, anche perché si sente abbastanza male. Volevo farmi sentire di Gennaro, che qui non è in sala. Sì, si sente malissimo però. Perché si sente malissimo? E che ne so? Ah, anch'io lo sento male, pensavo di essere io ad avere un problema col telefono. Si sente male, Pier. Si sente male, Capoccio. Mi faccio fare un discernato, sono Trevisani, Centa, Radio 24, Confindustria, roba seria. Buongiorno a tutti. Questo discernato che fa Salvemi, quanti anni hai avuto Salvemi, allenatore? Vuoi mandare un saluto a Gaetano Salvemi? Una Marta. Oh, si sente, mi dispiace da morire, ma se sente niente. Riccardo, mi aspetti un attimo, abbiamo il traffico, certo. Facciamo altre due chiacchiere. Grazie. convocati. Sono rimasti con Riccardo Trevisani. Pardo si è perso nei corridoi di Schiphol, aeroporto di aeroporto di Amsterdam, sulla via di per Swansea. Non so se avrà voglia di tornare, ma ma sai, prima sai, abbiamo aperto il programma tra Sanremo, Grillo, Renzi, eccetera. Non so se ci può stare, allora. Ci può stare che stia là, magari lo raggiungiamo. Mesetto pure. Mesetto. Senti, ma domani commenti la Juventus invece? Mi risulta. Domani mi risulta che sarò a Torino. Sarai a Torino, elmetto calato in testa, cappello non so se viene. Non credo. Conte oggi ha smorzato i toni, dribbling come non riuscivo neanche da calciatore. Io ho la sensazione che sia durata anche troppo sta storia, tu? Sono d'accordo, nel senso che è veramente una roba inutile. Credo che si sia infiammato il tutto per una vecchia questione e che comunque Conte non aspettasse che il momento di poter fare l'uscita. Però poi è chiaro che a volte l'uscita ti porta ad andare un po' fuori perché ce l'hai dentro da tanto tempo e si sono accesi i toni su una cosa che non sussisteva, perché alla fine Capello ha detto soltanto che lui non avrebbe fatto saltare il giorno libero ai giocatori, non è che avesse detto cose particolarmente grandi. Però io capisco Conte che dice fatti i fatti tuoi, cioè... sicuramente, anche perché se c'è una cosa che ha fatto male la Juve di Capello, al di là della discussione sulla revoca, è proprio in Europa. Io ricordo il Liverpool-Juve, la Juve giocare un calcio orripilante con una squadra molto più forte di quella di cui dispone Conte, quindi è evidente che Conte si sente in difficoltà allenando una Juve meno forte, che ha vinto 3 scudetti, 2 e mezzo diciamo, sì. e che in Europa comunque ha giocato sensibilmente meglio, pur uscendo in dei gironi non complicatissimi una volta e col Bayern però poi campione nell'altra, e credo che Conte giustamente si sia sentito un po' infastidito. Detto ciò, parliamo di calcio, viva Dio. Sì, certamente, parliamo di calcio e diciamo che invece, prima abbiamo parlato di un Barcellona, la partita di ieri non ha detto niente sul reale valore del Barcellona, nemmeno su una possibile crescita del Barcellona, al di là del fatto che è stato ritrovato Messi, quanto ha detto molto sui demeriti, dicevamo, del City. Direi che ha detto qualcosina invece la partita di Leverkusen. Io credo che mai come in questa situazione il Paris Saint-Germain abbia, guarda, quasi tratti della squadra del destino, posso dirlo? La penso talmente come te che ieri poi guardavo le quote e mi sono fatto ingolosire dal 15 a cui veniva pagato il Paris Saint-Germain, detto proprio fuori dai denti, perché comunque 15 è una quota a cui può stare una squadra di media caratura, non una squadra che ha Lucas, Lavezzi, Cavani, Ibrahimovic, Menez, Ferratti, Thiago Motta, Thiago Silva, Marquinhos, e posso stare qua tutto il giorno a elencarne altri, perché poi anche la classe media lì, vuoi Alex, vuoi Matuidi, sì. È tanta roba. Beh, però diamo merito anche a quello che sta in panchina, come diciamo, esatto, che ha allenato, esatto, molto male Pellegrini. Devo dire che dato che sai meglio di me che le squadre non si fanno né con tutti questi fantastigliardi né con le figurine, beh, bravissimo lui, Infatti su due persone mi volevo concentrare. Uno è Blanc, che mi sembra sempre molto sottovalutato, un po' perché non è un chiacchierone, un po' perché non ha questa faccia che ti ispiri simpatia, sì, in quanto francese anche, ma in assoluto credo che stia facendo un ottimo lavoro, come l'aveva già fatto a Bordeaux e come magari non gli è riuscito invece a livello un po' più alto in nazionale. Quello che dico è che il Paris Saint-Germain può disporre del jolly in questo momento. Fino adesso avevamo due giocatori dominanti in Europa in maniera incredibile, uno era Ronaldo e l'altro Messi. Adesso c'è finalmente anche Ibrahimovic. Ha passato un decennio terrificante dal 2003-2004 al 2012-2013 in Champions League, in cui segnava poco, spesso con squadrette, mai nella fase di eliminazione diretta, dove contava 29 presenze e 5 gol, di cui uno sul rigore e uno in fuori gioco. Adesso Ibrahimovic è un giocatore che segna, un giocatore che ha fatto 10 gol in 7 partite, come non era mai riuscito nemmeno a Messi e Ronaldo, è un giocatore che ha già fatto 2 gol col Paris Saint-Germain nella fase di eliminazione diretta l'anno scorso, l'ha rifatti 2 già pure quest'anno, quindi ha già fatto in 2 anni 4 gol contro i 5 nei primi 10. Insomma, c'è una certa differenza con l'Ibrahimovic di Milan, Ajax, certo, Inter, Juventus e Barcellona. Questo è il giocatore che abbiamo visto spaccare campionati, assolutamente, ora spacca pure in Champions. Assolutamente, cioè è lo stesso Ibrahimovic senza lo scimmione, senza il gorilla sulla spalla. Bravissimo. Quindi chiaramente per Paris Saint-Germain, che è già una buona squadra, avere il jolly diventa irresistibile. Con un buon tabellone diventa, secondo me, dopo il Bayern la prima candidata. Sono d'accordissimo. Grazie Riccardo. Grazie a voi. Grazie. Grazie Riccardo Trevisani. Pasquale, Foggia, sì, buongiorno. Sì, mi sentite? Certo che la sento, dica. Sì, sì. Montomedi, volevo sapere una cosa. Stasera ha parlato troppo presto, la sento, voleva sapere? Ciao, sti telefoni, cambiamo le linee telefoniche, eh? Sull'onda di mirabolanti dati d'ascolto, regalatemi delle linee telefoniche nuove, lo chiedo pubblicamente. Pietro, Napoli, buongiorno. Ciao, buongiorno, ti ascolto sempre con molto interesse. Senti, voglio fare una provocazione. Sì. Nel senso, tutte queste, diciamo così, grida contro il Napoli, no? Ma perché non cambiamo campionato? Il Napoli partecipa al campionato spagnolo, è una spagnola. Non ho capito perché, però. Il Napoli partecipa al campionato spagnolo. Sì, però non ho capito perché. Perché vuoi mandarlo a giocare in Spagna? È perché, non lo so, una credine contro il Napoli. Io tengo una certa età. Per esempio a Milano, a Torino, sono parecchi nipoti, figli di gente che è emigrata tanti anni fa. Ma adesso sono ancora più feroci del settentrionale, perché? Ma non lo so, non la vedo così, Pietro. Non la leggo così, non mi pare che la sensazione sia questa. Chiedo a Giorgio De Luca, napoletano, tifoso del Napoli, se lui la vive in questa maniera. Lui è molto giovane, mi fa segno di no con il dito. Insomma, diciamoci la verità, non starei a, anche qui siamo molto bravi spesso a piangerci un po' addosso. Non vedo questa credine, questa antinapoletanità, antinapoletanesimo, non so come si può dire. Mi sembra che il Napoli invece sia una squadra in netta crescita e i cui tifosi hanno, tra giorni avete sentito, forse esagerato un pochino De Laurentiis dicendo 6 milioni di tifosi in Italia, però sono davvero tanti e credo che stiano vivendo con grande attenzione, orgoglio e molta fiducia questo momento. Non mi pare di toccare questo tipo di sentimento. Daniele, buongiorno. Buongiorno Carlo, grazie per la convocazione. Grazie a lei. Niente, volevo insomma esprimere un pensierino sul Barcellona, che io ho trovato una grande squadra ieri a Manchester, sì. Una squadra che non ha, è vero, il City non ha mai tirato in porta, ma perché c'è stato il Barcellona che... Però il City ha messo del suo, Daniele. Il City ci ha messo del suo perché mettere una squadra così rinunciataria quando giochi in casa, levando ad esempio Jovetic che si è giustamente arrabbiato, che dice: ma come, sto cominciando a giocare, segno in Premier League, dobbiamo vincere, dobbiamo fare la partita, e me levi. Insomma, ieri Pellegrini ha fatto veramente il catenaccione, e se fai il catenaccione con il Barça ti asfalta, io direi. No? Esattamente, ho visto una squadra in palla ieri, veramente in palla. Forse il Barcellona, che probabilmente è un po' diverso da quello di Guardiola, ma l'ho visto, è una squadra da Champions. Sì, ma no, questo non, ma Daniele, su questo non c'è dubbio che sia uno squadrone e sia una delle tre reali, credibili, 3-4, facciamo 4 credibili favorite per la vittoria finale. Non c'è dubbio che sia un Barcellona diverso, lo sappiamo. Però quello che dico è che la partita di ieri non ci ha dato una... Insomma, è una squadra che ha attraversato anche un momento difficile, un processo di crescita travagliato, si è fatto male Messi, poi si è fatto male Neymar, eccetera, eccetera, ha avuto i suoi problemi. Quello che voglio dire è che la partita di ieri sera, che doveva essere il big match di questo primo giro di primavera di Champions League, non ha detto nulla, ma più che altro per demerito di un Manchester City inguardabile, a cominciare dall'atteggiamento. Riesco a parlare con Giulio, ragazzi. Giulio Roma, buongiorno. Riuscivo forse? Prima? Niente. Allora ci fermiamo con... sentiamo il giornale radio, poi torniamo insieme. Ho tante altre cose da farvi ascoltare. Ovviamente ci colleghiamo con Sochi, dove oggi abbiamo sperato in una medaglia, ulteriore medaglia nel gigante, con Simoncelli, che è andato fortissimo a prima manche, lentissimo nella seconda. Convocati. Speriamo che passa Milan, perché ho un grande memoria di Milan, e spero che Clarence fa bene, perché quando era un giocatore era già come un allenatore, allora lo vedo cose solo positivo, e bisogna avere pazienza, e così lo fa bene cose. Cioè, i casi sono due: o re di coppe del martedì, davvero al Milan nel cuore, in quel cuore di ghiaccio svedese, oppure si augura che il Milan passi il turno, perché magari gli fa meno paura rispetto all'Atletico Madrid. Questo però Ibrahimovic non lo dice. Cosa dice invece Galliani in questa vigilia di Milan? Non lo so, vedo che abbiamo le stesse idee. Anch'io guardavo il cielo, per, ho detto piove, però chissà che, anch'io stavo pensando al Manchester. Speriamo che no, ma al di là della pioggia speriamo che possa essere troppa grazia se fosse una partita così bella come quella, come la semifinale col Manchester. Luciano, Genova, buongiorno. Buongiorno Carlo, grazie. Grazie a te, dimmi. Ecco, dunque, mi domandavo questo, la Juve stradominata, lasciamo perdere gli scudetti revocati, perché io non sono juventino, sono sampdoriano, quindi non sono sospettabile. Ecco. Ecco, stradomina in Italia, non è possibile che si sia creata un'inconscia presunzione anche nei confronti dell'Europa, vista così la stragrande sicurezza che la Juve ha avuto storicamente sempre in Italia, e che tutto sommato, perché l'eliminazione tecnicamente ad opera di squadre come quella danese eccetera, ancora è inspiegabile sul piano del gioco, sul piano del, potrebbe essere benissimo anche, cioè, un fattore psicologico. Tu dici un vizio atavico, cioè qualcosa di congenito. La squadra è abituata a dominare, a dominare l'Italia, è quella che ha dominato di più i campionati italiani, e allora si sente probabilmente quasi addirittura con un minimo di sufficienza addirittura per l'Europa, non lo so. Io credo, Luciano, che non ci sia una spiegazione, se non magari questa, se non proprio questa dell'imponderabile, del magico, così di quell'alea pazzesca che è parte integrante del calcio e che lo rende bellissimo. Le stelle europee non hanno mai guardato con favore la Juventus storicamente, e questo è un dato di fatto. Tutti si ricorderanno, juventini e non, quella Juventus imbattibile con tutti i campioni del mondo dell'82 che perse ad Atene. Da lì in poi la Juventus è una squadra che in Europa ha sempre avuto grandi difficoltà, ha sempre avuto cattiva sorte, ha sempre avuto cattivo gioco, cattivi risultati. Certamente l'eliminazione di quest'anno è un chiaro fallimento. L'anno scorso la Juventus aveva fatto, secondo me, un'ottima Champions League. È ovvio che quest'anno ti aspetti, arrivato Tevez, rinforzata la squadra, perché la squadra si è rinforzata, e che ne dicesse Conte all'inizio dei giochi, ebbene ti aspettavi qualcosa in più. Esiste una parola che non deve sconvolgere nessuno per definire questa campagna europea della Juventus, la campagna dei Champions naturalmente, che è fallimento. Ora vedremo se la Juventus riuscirà ad alzare in casa sua l'Europa League, cosa che sarebbe estremamente importante. Cesare Torino, poi andiamo a Sochi. Cesare Torino non c'è, allora a Sochi ci andiamo subito. Sochi 2014. Allora, è quasi il mio compleanno e io chiedo pubblicamente dei telefoni nuovi, perché non esiste che continui a cadere le linee. Sarà il tempo, che poi dà a Galliani splendide sensazioni, perché gli ricorda un Milan Manchester United all'insegna di Kakà, ma era un altro Milan, era un altro Kakà, era un'altra storia, un altro film, quello di adesso, al di là delle suggestioni legate a un tempo da lupi, mi sembrano diverse. Credo che il Milan non sia favorito in questo doppio confronto. Poi anche lì vale il discorso fatto prima, no? Cioè, quello delle suggestioni, è vero, in Europa quella maglietta conta, il blasone conta, si può giocare sulla psiche degli avversari, che sanno che hanno di fronte una squadra che trova e ha sempre trovato storicamente, a differenza della Juventus, nelle partite di Champions il suo acquario. Beh, stasera lo scopriamo. Certamente io sto con Filippo Galli, cui ho distorto una dichiarazione, e cioè la sensazione che in questo Milan o ci pensa Barotelli o non si va molto lontano. Ciao Maria Pia Vas Beltran, ciao! Ciao a tutti, ciao! Cascata! Oggi cascano tutti, negatombe. Senti, come si chiama il portiere della nazionale finlandese di hockey? Adesso, cioè, di fronte a Marco, che è un gran bel ragazzo, il portiere non lo stavo guardando. La notizia perché? Comunque è che la Russia è quasi fuori dalle Olimpiadi in hockey e quindi qui chiudono baracca e botteghini. E baracca e botteghini, eh? Se la Russia non va in finale, qui chiude tutto, ragazzi. Sì, i biglietti li regalano a McDonald's, i biglietti, sì, per la finale, esatto, di hockey. Insieme a due cheeseburger ti danno anche il biglietto per la finale. No, perché esatto. non te l'ho chiesto a caso, perché c'è un ascoltatore che scrive: ma che Ibrahimovic, il vero fenomeno, è il portiere di hockey finlandese, non so come andrà a finire contro i russi, ma sta facendo dei numeri da paura. È vero, è vero. Si è fatto distinguere perché i russi si stanno provando in tutti i modi. Vi ricordo il punteggio che sul 3-1 nel terzo parziale ha fatto di tutto e di più per salvare la porta. C'è da dire che la Finlandia è comunque un'ottima squadra. Sì, senti, ha fatto i numeri invece Simoncelli oggi nella prima manche dello slalom gigante, numeri al contrario nella seconda, è andato davvero col freno a mano, eh? Esatto, sì, purtroppo non è andato bene lo slalom gigante per gli italiani, come sapevamo Ligeti in gran forma ed è quello che ha preso la medaglia d'oro, e è stato un bello vedere scendere lui perché è uno slalom in entrambe le manche, è fatto veramente pennellato, se si può utilizzare questa metafora. Gli italiani invece non sono andati bene, Simoncelli appunto, come dicevi, in prima manche è andato bene, mentre nella seconda 17esimo è tanta roba, è un distacco pazzesco, prima gli italiani, 11esimo è degli Prandini, però non è andata benissimo questa prova. Ha vinto un americano, Ted Ligeti, ed è questa è una notizia, perché gli Stati Uniti fino ad ora hanno vinto. Oltre all'americano che vince, io porterei anche l'attenzione ai due francesi che vanno secondi e terzi, perché non potete immaginarvi la festa che hanno fatto Messier e il suo compagno, perché comunque non se l'aspettavano. Ligeti si sapeva che era uno dei top, loro due invece hanno fatto un'ottima gara e giustamente la Francia e i colleghi francesi stanno saltellando da oggi. C'è champagne da tutte le parti, ma esatto. come direbbe il mio amico Cruciani, la signorina Kostner come sta? Lei sta bene, ho incontrato la sua mamma e insieme a Pinassi, sta bene anche lei. Carolina si è un pochino, insomma, tenuta la mente sgombra andando in Germania, non è rimasta qui nel villaggio olimpico perché diceva che gli allenamenti qui di mezz'ora erano troppo poco, lei ha bisogno di carburare, di lavorare di più. Noi incrociamo tutte le dita perché sappiamo che con le Olimpiadi ha un rapporto più di odio che di amore, visti le esperienze di cadute varie ed eventuali di Torino e Vancouver, per cui ovviamente tutti gli occhi questa sera sono puntati su di lei per il programma corto. Io sto prendendo giusto posto adesso qui all'Iceberg Palace e vediamo un pochino come va. Sì, è da dire che la grande osservata è la giovanissima Yulia Lipnitskaya, la russa, soli 15 anni per lei, e l'idolo di casa. Se tra l'altro la Russia esce nell'hockey, l'unica speranza, insomma, di disastro, che almeno fino a domani per i russi, per evitare il disastro, per evitare il disastro, dopo anche che Plushenko è uscito in quel modo molto teatrale, la nazionale di hockey appunto sta andando a Remengo, e ricordo, se passate da Sochi, McDonald's, cheeseburger e biglietto per la finale, dice Maria Pia Vas Beltran. Ciao, grazie. Ciao, baci. Ciao. Eria da Milano e poi ci fermiamo. Buongiorno. Buongiorno Carlo, complimenti. Buongiorno. Per la trasmissione. Grazie. Sono molto contento anche perché lei è un grande stimatore di Ibra come me. Sì. A differenza di Scaranzini che sembrava che non era molto simpatico. Ma ecco. Non lo so, a me fa godere. Va bene, uguale anche a me. Io sono un tifoso interista molto leggero, no? Sì. E solo che tengo a Ibra e qualsiasi squadra ha cambiato l'ho sempre seguito. Io e mio figlio. Ma sai perché? Perché ci divertiamo a vederlo giocare. Cioè, io ormai l'ho vediamo detto prima, sono un voyeur, non sono tanto legato a dei colori, sono legato a dei giocatori. E ce ne sono alcuni che mi piace vedere giocare a prescindere da quale maglia mettono. Ibrahimovic è uno di questi. No. Sì, sono goduto, mi passi il termine con le sue giocate, com'è questo grandissimo giocatore che poi l'ho incontrato un paio di volte. Ce la fa o non ce la fa alzare sta coppa? Ma ascolti, guardi, mio figlio diceva ieri prenotiamo il biglietto d'aereo e io sono tutto entusiasta di vederlo giocare, vedere la finale. Poi se la perde fa niente, però voglio vederlo in finale. No, se la perde è un disastro, Elia. No, lo so. Poverino, no, piuttosto che non ci arrivi, qualunque altra cosa, ma se va in finale la perde, davvero, mi si spezzerebbe il cuore. Elia, grazie, un abbraccio, saluti suo figlio, aspetterei un attimo a prendere i biglietti per la finale, un attimino. Vediamo anche come va stasera, altre due partite interessanti di cui parleremo domani. Giorgio Derugo, autore di questo programma, Roberto Scaltretti, regia, ciao a tutti. Forza Cristo, 2-0-6!